fitti con me e poi no. Sei tua amici proprio. Questo non è darsi al cubo. Strage che non vuole attacca. Non fotti con noi, fuck poi no. Gang gang. Dei tuoi amici froci, haha. Losette gang gang. FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, haha. FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, haha. FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Con i selvaggi tu fuck boy. Vuoi fermarci ma non puoi. Mi puoi trovare a BDB in giro coi randaggi senza pedigree. Delle statue rocce, gargoyle, train spotty come Dumboyle. Medicine non medikit, fanculi medici. Ho le ricette finte per i farmaci. Dio piaccio calmaci, placa mille fitte, scolo 5 pinte, prendo due pasticche street farmaci. Oh god, smoke pot, puff puff, pass that shit a umano che ne ha un'altra in mano. Fumo erba spagnola, scano, decogliamo. Facciamo un party se vuoi venire. Porta le droghe, porta ne tante. Porta le top e porta le gatte. Le nere, l'asio, le bianche. Open mind che apre le gambe. Non rida, frigida, arrogante. Che vuole divertirsi, non le tipe tristi. Che la vita è già pesante. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Scappo dalle guardie, Nike e Brave. Non credi nella dark come nel Vangelo. Serve una pelliccia, qua fa sotto zero. Siamo dei rioni, da dove cazzo vieni? Non parli di soldi, a cosa cazzo servi? Se non senti la gang, cosa cazzo senti? E non siamo gli stessi, no, siamo diversi. Alieni non umani, abbiamo 7 sensi. Abbiamo 7 grammi nei G-Star. Fotti la gang, calci nella gengiva. Adesso ti serve un dentista. Sto troppo fatto tipo anestesia. No sentimenti, cuore ghiaccio secco. Togliere una vita tipo eutanasia. Stacco la spina, non voglio sentire stronzate. Stacca la sim se parliamo d'affari. Gioco del rap e della coca, stessa cosa. Sto con Parex, stiamo sulla stessa droga. Coi tuoi amici froci steccate una troia. Faccio soldi con i miei e poi stecchiamo la torta. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Hey buddy, sto suonando al party perché ancora parli e non mi molli un po'. Sto con i miei dog, sipping liquore, molestando chicas. I'm balling, I'm rolling, è inutile che ti accolli. Sto high, so high fuori. Bye bye, dai vai muori. Questo è il Dog Boys Wing. Alcol, mad cash, pussy e weed. Pompa da pa, la young lean. Balling tra i palazzi. Bomber nero, cargo camo. Air Max 95 piedi. Niente amore, non abbiamo. Se vuoi qualcos'altro chiedi un po'. Pacchi e pacchi di flow. Voi si pacchi, tornate nei parchi a farvi cilotti. Mentre pensiamo a trasformare in oro questi ingotti. Wow, due pound di pineapple, ananas, mi rilasso. Ama cap, psiconauta, nuoto nella Via Lattea. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata. Non fotti con noi, fuck poi no. Dei tuoi amici froci, FL Darkside, wow wow. Strage Columbo in ratata.